Steven Pinker, in Come funziona la mente, sostiene che in questa nostra epoca scientifica siamo ormai costretti a cercare la spiegazione del comportamento umano come una complessa interazione fra sei ordini di fattori. Da una parte ci sono i geni, e poi c'è l'anatomia del cervello, il suo stato biochimico, l'educazione ricevuta in famiglia, il modo in cui si è stati trattati dalla società in cui si vive e infine gli stimoli ricevuti. Per ciascuno di questi fattori trova il caso di cronaca più adatto. Nel 1978 ci fu un tale a San Francisco che, dopo essersi dimesso da un incarico pubblico, chiese al sindaco di reintegrarlo. Ne ottenne un rifiuto e reagì ammazzando il sindaco più un altro dirigente. Al processo i suoi avvocati riuscirono a dimostrare che prima del duplice delitto costui si era ingozzato di dolciumi che avevano provocato un disastro chimico nel suo cervello e che gli costarono in fin dei conti pochissimo: 7 anni di carcere. Più o meno nella medesima epoca una dottoressa venne fermata da un agente della polizia stradale perché sospettata di guidare in stato di ubriachezza. Forse offesa per il sospetto, non so, lo ammazzò senza pensarci 2 volte. La difesa riuscì a buttarla sugli ormoni e invocò la sindrome premestruale. Un successone. Nel 1989 due ragazzi ammazzarono a fucilate i genitori mentre questi erano a letto a mangiare fragole congelato. Al primo processo se la cavarono perché gli avvocati parlarono di legittima difesa. I due ragazzi avrebbero subito abusi da parte del padre. Nel secondo processo, 7 anni dopo, agli abusi non si credette più e affibbiarono loro l'ergastolo. Nel 1992 un condannato a morte per assassinio e stupro chiese la commutazione della pena perché secondo lui era stato spinto ai suoi delitti dalla pornografia dilagante. E Pink non dice come è andata a finire. Il 1993 è l'anno in cui venne annunciata la scoperta del gene dell'aggressività. Immediatamente ad un processo per omicidio gli avvocati difensori fecero ricorso all'argomento. Non è stato lui ma i suoi geni. Nel 1994 un afroamericano sale su un treno, all'improvviso si mette a sparare su tutti i bianchi che vede, ne ammazza 6 e il suo avvocato invocò la sindrome della rabbia nera, una sorta di malattia che toccherebbe a chi vive in una società razzista, e il suo protetto, a conferma ulteriore della sua teoria, non se la cavò. Tutti i delitti, insomma. Quando si cerca la spiegazione di un comportamento, il caso portato ad esempio è quello di un delitto. Per altri comportamenti, che pur sono comportamenti allo stesso diritto, come mettersi le dita nel naso, passare con il rosso o gettare una cicca di sigaretta accesa sul marciapiede, ai geni non si fa ricorso, come non si fa ricorso allo stato del cervello e neppure più o meno si medicalizza che sia. Sono comportamenti che non vengono ascritti a interazioni particolarmente complicate, accontentandosi di solito a tirare in ballo l'educazione ricevuta, anche se volessimo precisarne i confini di questa educazione ricevuta, ci troveremmo in notevoli difficoltà. Le agenzie educative sono tante, spesso in concorrenza fra loro e comunque raramente coerenti. Un manifesto pubblicitario o una canzone al Festival di Sanremo può pesare di più di un sermone paterno o di un sermone paternalistico. Chi ha responsabilità di genitore, di insegnante, di prete o di soubrette, di cantante o di candidato alla presidenza del Consiglio, chi ha responsabilità di chi racconta come sono andate le cose e di chi racconta come avrebbero potuto andare altrimenti, questo dovrebbe saperlo e ricordarlo. Tutta questa tensione esplicativa del delitto è subdola. Nella pratica deborda chiaramente nel compiacimento morboso, sia allorché si scende di giorno in giorno, di orrore in orrore, focalizzando gradualmente sul microscopico. Inutile alla spiegazione, almeno quanto è inutile sapere di quark e di mesoni per chi con una stecca imprime movimento ad una palla sul panno verde di un biliardo. E anzi, allorché ci si interroga sfacciatamente protagonisti e comparse sulle varie presunzioni di sé e del proprio stato interiore. Il giornalista o chi ne fa le veci, che chiede a vittime e carnefici cosa sentono dentro in quel momento, andrebbe messo seduta stante in condizione di non nuocere ulteriormente. Nella teoria implicita che la governa, ecco, tutta questa tensione esplicativa risponde all'esigenza ideologica di un razionalismo consolatorio, ormai tanto dilatatosi da poter accogliere con il sorriso sulle labbra perfino la casualità più disperata. Tutto spiega, tutto ci va bene, siamo di bocca buona, siamo pronti ad assolvere nel caso si finisca con l'individuare la causa interna e siamo pronti ad assolvere altrettanto rapidamente nel caso si finisca con l'individuare la causa esterna. Siamo tanto ottimisti da non renderci neppure più conto che una volta tolti di mezzo sia l'interno che l'esterno, la metafora è esaurita. Con la fine di febbraio non vedremo più sui teleschermi due spot pubblicitari. Uno è quello di Fiorello, lanciatore di coltelli. Sente sussurrare in platea che il canone telefonico non si deve più pagare o qualche altra luminosa rivelazione consimile, non so, e scaglia per errore un coltello in piena fronte della sua partner. Negli anni 60 la rivista Karakiri era zeppa di trovate del genere e tutti noi abbiamo imparato che si può partire dal cinismo per arrivare a sghignazzare a più non posso. Un bambino di oggi, un bambino come quello di Como, di cui parlano le cronache, tuttavia, non ha il nostro background culturale e avendo visto lo spot, a quanto dicono, si sente del tutto legittimato ad imitarlo. Il secondo spot eliminato è quello della signora che, occupatissima nel mantenimento dei valori materiali espressi dalla sua famiglia, famiglia che più che sua è della borghesia intera in quanto categoria storica, inizia col dirci che, grazie a Dio, sua figlia è diversa. E come se nel frattempo avesse saputo qualcosa sulla tragedia di Novi Ligure, finisce asserendo che sì, mia figlia è diversa, credo. Sua figlia invece è rigorosamente uguale. Adolescente santa agli occhi della madre, adolescente in fingarda agli occhi di quel telespettatore che tutto vede e tutto lascia com'è. Pubblicità della Telecom non poteva cadere in peggior coincidenza. Dai telegiornali alla pubblicità il passo era brevissimo. L'angelo di mammina sua era sempre lì, anche in versione flashback, prima e dopo l'azione. Sarà anche vero che un minimo di scrupolo morale e di buon gusto avrebbero dovuto indurre a ritirare immediatamente lo spot. Ma è indubbio che, come ha notato Aldo Grasso sul Corriere della Sera, dietro la sfavillante normalità della figlia che finge di studiare, dietro la sicurezza materna, si potrebbe annidare il fallimento del più complicato strumento di comunicazione, cioè il linguaggio dei sentimenti. E pertanto anche ai più riottosi è stata offerta un'occasione quanto mai impropria per riflettere sui casi propri. Potrà anche essere che qualcuno prossimamente ci dimostri che la nefasta coincidenza ha giovato agli affari mercantili della Telecom. Nel caso non dovrebbe perder tempo quell'agenzia di pubblicità che anni or sono riempì il paese con quella campagna di affissioni dove si diceva che mio figlio mi trita se la Fanta è finita, o per correttezza politica che mia figlia mi straccia se della Fanta non c'è traccia. La ritirino fuori. Gli appassionati di spiegazioni avrebbero un motivo di soddisfazione in più. Let's do one, let's do one. Hey, I don't know if he rolls. Nope. I don't think he rolls.